Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Benvenuti alla nona puntata de Il bene di tutti, parliamone. Ormai la tradizionale rubrica del martedì sera a cura dell'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Chi vi parla è Andrea Canton. Da alcune settimane, carissimi ascoltatori, utilizziamo questa rubrica per riflettere assieme su lavoro, economia, politica e società. A guidarci, come ogni martedì, l'insegnamento della dottrina sociale della Chiesa, la posizione del Magistero alla luce della Rivelazione su argomenti che di primo acchito ci sembrano assolutamente avulsi dalla nostra idea di Chiesa, ma anche per economia, politica e lavoro possono essere applicati e portare molto frutto i principi evangelici. In questi mesi, moltissimi italiani di diverso orientamento politico e di differenti fasce sociali sembrano aver riposto ogni residua fiducia nella politica che possedevano nel governo Monti. Sembra infatti che solo l'esecutivo guidato da questo taciturno professore possa traghettare l'Italia fuori da una crisi della quale gli italiani hanno finalmente, forse un po' troppo tardi, avvertito la reale pericolosità. Leggendo i sondaggi, però, ci accorgiamo che nel caso si votasse domani, il partito che in Italia otterrebbe alle elezioni una maggioranza bulgara degna della DC degli anni 50 è il partito dell'astensione. Il partito di quegli italiani, cioè, che si sentono disorientati, non sanno più di chi potersi fidare e forse, dopo anni di promesse vane, non vogliono o non riescono più a farlo. La Costituzione, però, ci richiama al ruolo fondamentale della politica, che ha il suo vertice nella rappresentanza parlamentare. Il potere, insomma, di designare qualcuno che si occupi, su nostro mandato, della cosa pubblica. Riuscirà la politica a recuperare la credibilità perduta? Sarà con noi in collegamento telefonico il senatore Paolo Giaretta, già sindaco di Padova, sottosegretario del governo Prodi e attualmente segretario regionale per il Veneto del Partito Democratico. Intanto ascoltiamo quello che la dottrina sociale della Chiesa, più precisamente il compendio della dottrina sociale della Chiesa, ci dice a proposito di politica. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Coloro che hanno responsabilità politiche non devono dimenticare o sottovalutare la dimensione morale della rappresentanza, che consiste nell'impegno di condividere le sorti del popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali. In questa prospettiva, autorità responsabile significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù, che favoriscono la pratica del potere con spirito di servizio, pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione. Un'autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali. Bentornati, è con noi il senatore Giaretta, grazie senatore per la sua disponibilità. Buongiorno. Abbiamo appena letto questo brano dalla dottrina sociale della Chiesa, si riconosce? Beh, certamente, ormai sono parecchi anni che ho un impegno politico o amministrativo, bisogna attenersi a quella vecchia regola che ogni tanto l'esame di coscienza serve non per assolvere la coscienza ma per essere un po' più esigenti, e in questo momento di grande smarrimento della politica italiana, no? Viene in mente quel brano del Vangelo di Matteo, mi sembra, di pecore spaventate, sfiduciate, senza pastore, e siamo un po' in questa situazione. Usare nel comportamento quotidiano la luce della dottrina sociale della Chiesa, che non ci dà delle soluzioni concrete nel dato momento storico, ma ci dà dei principi e dei valori a cui conformare l'azione politica quotidiana, è certamente una cosa che serve. poi riuscirci è un'altra cosa, ma farsene ispirare credo che sia necessario. Un elemento fondamentale della politica è la rappresentanza, in questo caso la rappresentanza parlamentare. Eppure da pochi mesi siamo governati da delle persone che non sono state propriamente elette e abbiamo nel contempo 1000 parlamentari. Come la spiega questa situazione, nonostante chiaramente la gravità del momento che ha imposto queste scelte non comuni alla politica? Ma io le spiego così: questo governo nasce da un fallimento per evitare un fallimento. Il gioco di parole significa questo. Nasce da un fallimento politico, cioè dal fatto che gli italiani avevano votato con molta larghezza una maggioranza attorno al precedente presidente del Consiglio Berlusconi, una maggioranza di centrodestra che aveva i numeri parlamentari per poter svolgere il proprio programma. Le divisioni interne, la difficoltà della situazione generale, l'incapacità di affrontarla hanno generato il fallimento di questa maggioranza politica. Ma sullo sfondo c'era il rischio di un fallimento per il Paese, e il fallimento economico del Paese avrebbe significato conseguenze gravissime per i cittadini. Vediamo quello che sta succedendo in Grecia: taglio del 30% delle pensioni, degli stipendi, azzeramento dei risparmi, disoccupazione alle stelle e così via. Quindi nasce un governo di emergenza per risolvere il problema di questo fallimento. Mi sembra che ci stiamo riuscendo. Dopodiché questo è un governo politico, si legge sempre sui giornali il governo tecnico, no, sarà un governo fatto di ministri non designati dai partiti, ma il governo per risolvere i problemi fa politica, cioè cerca di perseguire il bene comune, e il governo sta in piedi perché ha il consenso della maggioranza dei parlamentari. Quindi io da parlamentare non sto vivendo affatto questa fase come una fase diminutiva della mia, del mio dovere di rappresentanza. Anzi, io sono chiamato ad esprimere il consenso, il dissenso sui provvedimenti, non in base ad un'appartenenza politica, ma in base a quello che a me appare il bene comune da perseguire in questa fase. Eppure negli ultimi 25 anni di vita politica italiana, i governi che hanno fatto le scelte più importanti, che in qualche modo hanno cambiato il volto del paese, sono stati proprio dei governi tecnici. Ma servono, perché in Italia servono proprio dei professori per fare della buona politica? No, non è così, nel senso che è vero che nei momenti di difficoltà, per dare un senso di maggiore unità al paese, per evitare ad esempio di andare ad elezioni anticipate quando ci sono problemi urgenti, si scelgono delle personalità tecniche. È stato il caso con il presidente Ciampi, ad esempio, la crisi della lira, e quindi anche lì un rischio di fallimento, si è scelto il governatore della Banca d'Italia. Ma ci sono fatte cose importanti anche quando, anche con un presidente del tutto politico, come è stato Romano Prodi. Siamo entrati nell'euro, riforma essenziale senza la quale oggi saremmo peggio della Grecia se fossimo rimasti fuori dall'euro, distrutti dalla speculazione internazionale. L'abbiamo fatto con un governo politico, pienamente politico, quindi è importante fare bene il proprio dovere. La ringrazio, ci fermiamo qualche istante e torneremo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con il senatore Paolo Giaretta. Grazie per essere con noi. Eccoci qua. Eppure, senatore, in questi mesi sono state fatte delle manovre chiaramente non indolori, ma sicuramente necessarie per evitare, come ha descritto lei, degli scenari di fallimento tipici della Grecia di questo periodo. Eppure è un mio sentore, ma è un sentore comune a molti che guardano la politica. se queste manovre fossero state fatte da un governo, chiamiamolo politico, di destra o di sinistra, ci sarebbero state, non dico le rivolte di piazza, ma sicuramente molta più insoddisfazione. Come mai quindi con un governo, chiamiamolo tecnico, chiaramente lei ha spiegato che è un governo di nome tecnico, di fatto è politico, come mai l'Italia sembra aver accettato adesso di buon grado questi sacrifici? Ma penso che gli italiani siano persone di buon senso e hanno compreso che dopo appunto quel fallimento politico di cui parlavo all'inizio dell'intervista bisognava affrontare di petto la questione, e ha accettato che lo facesse una personalità credibile. La crisi della politica è una crisi della credibilità anche del personale politico, no? E quindi c'era bisogno di una persona con reputazione interna e internazionale che desse agli italiani la sicurezza che ciò che veniva fatto proprio per un dovere di necessità, per evitare sacrifici ancora maggiori nel futuro, perché certamente i sacrifici ci sono pesanti, come sempre in questi casi bisogna che tutti li facciano, anche chi ha dei redditi modesti, e quindi dal punto di vista di una giustizia sociale si vorrebbe che fossero esclusi, ma sono molti, e quindi purtroppo in questa situazione anche la quantità deve essere messa in campo. Devo però dire che non è che solo i governi tecnici hanno avuto la forza politica, etica direi prima che politica, per chiedere agli italiani dei sacrifici. Quando Romano Prodi, presidente del Consiglio, decise saggiamente di entrare nell'euro, dovette chiedere agli italiani un sacrificio straordinario. Fu una manovra molto pesante, paragonabile a quella che ha dovuto fare Monti, eppure gli italiani la accettarono, perché capirono, grazie anche alla reputazione di Prodi, di Ciampi, che quello era un passo necessario per il bene dell'Italia. Quindi il problema riguarda soprattutto la credibilità, che purtroppo in questa fase storica, per errori anche commessi, è piuttosto bassa per le personalità politiche, per i leader politici. Ma insisto su questa idea, adesso che l'ho visto anche all'opera: Monti è un politico raffinato e non può che essere così. Chi ha fatto l'errore che facciamo è di pensare che la politica sia solo quella dei partiti, ma la politica va oltre i partiti, è un ragionamento appunto sugli interessi generali del paese, sul bene comune, e Monti da commissario europeo ha trattato con tutti i principali paesi europei, con le grandi imprese multinazionali, quindi per far questo ci vuole la politica, cioè la visione del bene comune. Sì, chiaramente la politica non è limitata ai partiti, però i partiti sono fondamentali nella vita politica. Infatti quando andiamo a votare mettiamo il simbolo sul nome di un partito, e ai bei tempi mettevamo anche un nome. Ma qual è il futuro dei partiti politici del dopo Monti? Cambierà qualcosa? Lei prima ha parlato che Prodi è riuscito comunque ad imporre la manovra per farci entrare in Europa grazie alla credibilità che un tempo aveva, chiamiamola politica, certo, partitica. Questa credibilità tornerà prima o poi? Riuscirà la politica partitica a riconquistarsela? Deve riconquistarsela, perché un sistema democratico deve avere dei luoghi in cui possa essere organizzato un progetto sul futuro del paese, possa essere organizzato il consenso. Non è detto che tutto questo debba avvenire esclusivamente all'interno dei partiti, no? Noi vediamo come la società è organizzata in tante forme altrettanto importanti, penso a tutto il mondo del volontariato, che anch'esso fa politica, tra virgolette, intesa come realizzazione di un progetto, però certamente per le rappresentanze democratiche in Parlamento, in modo particolare nelle regioni eccetera, l'organizzazione in partiti è quella forma del resto prevista saggiamente dalla nostra Costituzione, però i partiti devono uscire da questa autoreferenzialità, come si dice, che li fa apparire troppo estranei alla vita concreta dei cittadini. Ecco, il tentativo che abbiamo fatto, ancora insufficiente, con il Partito Democratico di aprirsi, ad esempio, all'esperienza delle primarie, che dovunque si fanno hanno un grande successo di partecipazione, dimostra che c'è una voglia di partecipazione nella società italiana, per quanto sfiduciata. Gli strumenti tradizionali dei partiti sono insufficienti, quindi dobbiamo cambiare la ragione sociale dei partiti, devono aprirsi di più alla società, devono offrire degli strumenti di partecipazione più ricchi, devono rendere più espliciti i loro progetti sul paese per recuperare questa credibilità. Io mi auguro che i partiti, perché in questo caso sono i partiti che lo debbono fare, ad esempio riescono a fare questa famosa riforma della legge elettorale che restituisca ai cittadini il potere di scelta dei parlamentari, perché questo è un esproprio che è stato fatto non con il consenso di tutti, è stata una parte della politica che ha voluto fare quella famosa legge Porcellum che ha tolto il potere di rappresentanza ai parlamentari perché sono nominati e non più eletti. Ecco, io penso che dovremmo fare queste cose, presentarsi con questo volto, e i cittadini recupereranno anche la fiducia nel significato di impegnarsi anche nella vita politica. Poi c'è un dovere del cittadino quando dà il voto, come dire, forse di riflettere un po' di più. Ecco, cioè la situazione in cui siamo non è figlia del destino, è figlia anche di scelte politiche che sono state fatte. Adesso io non voglio qui fare polemiche politiche, ma insomma questo paese negli ultimi 10 anni è stato governato da un insieme di forze politiche, altre sono state all'opposizione, e il governo Monti appunto nasce dal fallimento di quell'esperienza di governo, che pure aveva avuto tanto consenso tra i cittadini. Lei parla di cambiamento della legge elettorale e anche di profondi mutamenti all'interno dei partiti, potremmo addirittura arrivare a definire una terza repubblica. Quale sarà il ruolo dei cattolici in questo periodo di cambiamento? Sarà, aumenterà, diminuirà, cambierà? Lei cosa può dire? Io penso che resterà e dovrà essere ancora più essenziale per la ricerca del bene comune. Non sarà il problema di una ricerca, come dire, di maggior potere. Io non so dire oggi se l'evoluzione del sistema politico italiano potrà vedere, come dire, anche la formazione di un nuovo soggetto politico che dia espressione più diretta alla cultura cattolica, insomma all'antropologia cattolica, oppure resti un sistema in cui i cattolici possono essere rappresentati in diversi partiti politici, ma comunque portando nel luogo in cui stanno il messaggio della dottrina sociale della Chiesa. Io penso che la crisi, che è una crisi globale, mondiale, è una crisi di natura antropologica, cioè c'è una crisi di senso della vita prima che crisi economica, ebbene le risposte chiave stanno dentro la dottrina sociale della Chiesa, che ha sempre parlato contro gli eccessi del liberismo e contro gli eccessi dello statalismo. E oggi si dimostra che quell'impostazione, quando nella Caritas in Veritate il Papa parla della necessità di una umanizzazione dell'economia, e non basta distribuire dopo in modo equo le ricchezze prodotte, ma fin dentro il processo produttivo ci deve essere una umanizzazione. Quando Giovanni Paolo II parlava l'uomo prima del lavoro, il lavoro prima del profitto, quando Paolo VI ancora nel 1967 parlava dei rischi della globalizzazione se non era accompagnata da una visione umana, beh, tutto questo dimostra che c'è una sorgente di pensiero a cui attingere. La ringraziamo, senatore, speriamo insomma che questo vento di todi soffi anche nella politica italiana, e certo. Grazie per il tempo che ci ha concesso. Buongiorno a tutti.